giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova. Ben ritrovati da Mirko Cavallini in studio e di Daici in regia, nuovo spazio di ascolto di eventi e incontri che si sono svolti in questo periodo recente o anche recentissimo, come il caso di oggi, nel territorio della Diocesi di Padova. Poveri e così non sia, il titolo del rapporto 2017 sulla lotta alla povertà redatto dalla Fondazione Manuela Zancan Onlus di Padova, edizioni Il Mulino, presentato il 21 marzo scorso all'interno della giornata in memoria di Don Giovanni Nervo e Don Giuseppe Benvenu Pasini. Il rapporto è appunto in vendita al prezzo di 18 euro, edizioni Il Mulino. Noi torniamo sulla giornata che si è svolta al Palazzo Vescovile di Padova con la presentazione, diverse voci che si sono alternate, condotte e presentate da Giulia Barbero della Fondazione Zancan. Buon ascolto. I giorni della Chiesa. Buongiorno a tutti. Io vi presento la sessione della giornata dedicata alla presentazione del rapporto 2017 sulla lotta alla povertà dal titolo Poveri e così non sia. Ringrazio il professor Gilberto Muraro che ci presenterà il rapporto e siamo molto grati per la sua disponibilità, proprio perché è la persona, secondo noi, la persona ideale per presentare questo rapporto, per almeno tre motivi. Il primo motivo è che lui era presente nel 75 quando a Malosco sono stati organizzati appunto due seminari con il professor Alfred Kahn, appunto professore della Columbus University, e il professor Muraro appunto faceva da traduzione dall'inglese e il tema era proprio la pianificazione sociale. Il secondo motivo è che appunto il professor Muraro nel corso della sua carriera ha avuto modo di approfondire i temi del welfare e della finanza pubblica, che sono proprio parte del tema di questo rapporto. E il terzo motivo è che il professor Muraro, presidente della Cassa di Risparmio del Veneto, è promotore insieme a Banca Prossima del premio Angelo Ferro per l'innovazione nell'economia sociale. Trovate il bando in cartellina, si tratta di un riconoscimento molto importante del valore di 20.000 euro che viene dato all'organizzazione che abbia dato il miglior contributo proprio all'innovazione dell'economia sociale in qualsiasi ambito di attività, nei processi o nei servizi. Ma lascio subito la parola al professor Muraro che ci presenta appunto il rapporto 2017 sulla lotta alla povertà dal titolo Poveri e così non sia. Buonasera a tutti, grazie di questa introduzione e grazie alla Fondazione Zancan di avermi associato a questa giornata. Sono onorato di poter dire che ho conosciuto ambedue le persone che ricordiamo con affetto e riconoscenza, in particolare Monsignor Giovanni Nervo, che è una persona che chiaramente influenzava anche soltanto con un colloquio di pochi minuti chiunque avesse il privilegio di incontrarla. Sono grato anche per avere l'occasione di illustrare questo rapporto sulla povertà che, al pari di precedenti, continua ad essere una testimonianza, un'analisi, una raccolta di proposizioni di estremo interesse. E io vorrei appunto illustrare molto brevemente i pregi di questo rapporto, a cui auspico una larga diffusione proprio sotto questi tre profili dell'informazione, della riflessione e delle proposte. Sul piano dell'informazione il contributo è notevole soprattutto dal lato della spesa. Noi ormai conosciamo, perché la realtà quotidiana ce la sbatte di fronte, come si usa dire, a ogni piè sospinto la realtà paradossale di una società che sia pure lentamente diventa più ricca e però allarga anche l'area della povertà. È il problema forse principale della società contemporanea, che ha evidentemente perso quel segreto dei 30 anni, 40 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale, gli anni di creazione del welfare state, in cui non solo si creava ricchezza ma si diffondeva ricchezza. Adesso i due movimenti sono separati e quindi abbiamo crescenti disuguaglianze. E non solo crescenti disuguaglianze, ma abbiamo anche una inferiore mobilità sociale. Ed è a questo che vorrei invitarvi a prestare la massima attenzione, perché la storia ci dimostra che le disuguaglianze e anche le situazioni di povertà sono sopportabili se c'è speranza. Ma quando accanto alla povertà mettete anche la perdita della speranza di poter migliorare, la situazione diventa esplosiva. E credo che sia questo che sta alla base di quel richiamo ormai frequente di Papa Francesco sul fatto che siamo in una situazione intollerabile. Ecco, ho usato e mi ha sempre impressionato questo aggettivo, che è un aggettivo importante. Intollerabile vuol dire che prima o dopo qualcuno non la tollera, e quindi è qualcosa a cui dobbiamo pensare. Bene, allora vi dicevo, se la situazione della povertà è una situazione che è ormai conosciuta, l'Istat diffonde statistiche da questo punto di vista frequenti e attendibili, addirittura a livello di opinione pubblica, no? Cominciamo anche a imparare il confronto fra i decili, il 10% possiede una quota inimmaginabile della ricchezza nazionale, oppure addirittura il coefficiente di Gini, che mi dice sinteticamente quant'è la disuguaglianza nel paese. Se dunque conosciamo questo, non conosciamo però abbastanza quello che avviene dal lato delle politiche. E quindi il primo pregio di questo rapporto, e penso in particolare al capitolo di Maria Bezze e di David Geron, Eppur si spende, è quello di richiamare, di confrontare, di analizzare tutto ciò che viene speso, che non è irrilevante. Da questo punto di vista bisogna riconoscere che anzi le misure si sono moltiplicate, gli interventi si sono moltiplicati negli ultimi anni e non sempre per importi trascurabili. Quindi mettendo assieme questi tanti rivoli si vede che la scala è notevole. Questa dunque è la parte che conosciamo meno, perché santiamo i programmi, i bonus li conosciamo tutti, naturalmente ci sono anche i politici che comprensibilmente ne fanno una grande propaganda, visto che vogliono associare il loro nome a certi interventi sociali, ma non sappiamo quanto esattamente valgano questi interventi e soprattutto non sappiamo quali siano i risultati. Non sappiamo quali siano i risultati per una carenza generale di cultura politica che ci fa dimenticare l'obbligo morale di dare la rendicontazione di ciò che il pubblico fa. Ecco, non abbiamo la cultura della valutazione ex post, dimmi che risultati hai avuto. E questo è un difetto generale che ho sperimentato in tutto il settore dell'economia pubblica, ma che è particolarmente rilevante in questo campo in cui contano appunto i risultati che non conosciamo. Quindi un grande merito sul piano dell'informazione a questo riguardo. Secondo merito sul piano della riflessione. Qui vedrete che c'è anche questo vecchio accorgimento stilistico, non so da chi abbia preso Tiziano Vecchiato, se da Galileo che faceva il dialogo dei massimi sistemi con le due persone o da altri esempi ancora precedenti più illustri, ma insomma è abbastanza avvincente, aiuta il lettore ad andare avanti in questa analisi a tappe, che vede appunto Tiziano portatore, no, delle istanze, delle curiosità, e Alfred che è quello che risponde con la saggezza e la competenza del tecnico. Già avete sentito che Alfred appunto si richiama alla figura di Alfred Kahn, questo illustre studioso che già nel 1969 aveva pubblicato un volume ponderoso su, anzi erano due volumi, due tomi se ricordo, appunto Teoria e Pratica della pianificazione sociale, che è stato oggetto di quei seminari a Marosco, e che illustrava come seriamente si possa e si debba affrontare il problema degli interventi in campo sociale. Quindi è una crescita, come dire, attraverso un'esplorazione cumulativa, no, dei problemi e delle possibili risposte. Naturalmente questo richiama un po' il problema poi delle applicazioni, no? Parliamo tanto di pianificazione, richiamiamo questa illustre esperienza a livello di letteratura economica, perché non la applichiamo anche in Italia. E a questo punto di vista Tiziano veste i panni probabilmente del direttore di una fondazione che ne ha viste tante nella propria vita e inserisce il capitolo con il titolo La programmazione, pochi risultati e un incerto futuro. Ecco, per dire che si fa presto a parlare di programmazione a livello di letteratura economica, ma poi insomma applicarla, no? Noi siamo portatori in Italia di esperienze deludenti. La mia generazione è stata proprio la generazione che si era illusa dalla programmazione. Penso al documento citato di Ugo La Malfa, penso a tutto quel lavoro del Ministero del Bilancio che disegnava scenari, una strada, no, difficile, ma in cui c'era la prospettiva di sorti magnifiche e progressive dell'Italia, che aveva dato prova di un'enorme vitalità nei primi decenni del dopoguerra. Ricordate gli anni del miracolo economico, erano gli anni in cui anche noi avevamo la crescita che adesso vediamo soltanto nei paesi asiatici del 6-7%, no? D'altra parte non si spiegherebbe altrimenti perché siamo partiti dopo la Seconda Guerra Mondiale come paese rurale e povero per scoprirsi 30 anni dopo come paese industriale e ricco. Quindi un'enorme vitalità che però si avvertiva già allora da parte degli osservatori, no, più lungimiranti, reclamava una regolazione, un indirizzamento, un sapere dove andare a finire nel lungo periodo. Quindi c'è stata veramente una stagione in cui la programmazione era la parola d'ordine delle persone più colte, dei politici più lungimiranti, e qualcosa ha anche prodotto, perché sempre insomma questo sforzo ha qualche risultato, ma certamente di gran lunga inferiore all'attesa. E allora abbiamo imparato proprio attraverso quell'esperienza che non basta l'ideazione, bisogna porre molta attenzione all'esecuzione. Ed è questo che ha fatto un po' franare tante speranze. Io ricordo la confessione anche di un studioso illustre dell'economia, che Graziani, che appunto diceva la programmazione era anche ben fatta, ma non c'erano, no, le forze, soprattutto nel settore pubblico, per realizzarle. E io mi ero quasi arrabbiato dentro di me nel leggere questa confessione, che pure era anche molto sincera e illuminante, perché dicevo, ma è come se un generale mi venisse a dire avevo fatto un buon piano di battaglia, ma non avevo l'esercito adeguato per realizzarlo. No, tu devi fare i piani in base alle forze che tu hai e quindi essere fin dall'inizio attento a quello che è l'esecuzione. Cioè, era uno stadio in cui non c'era stato ancora lo sviluppo tumultuoso quasi che c'è stato nella letteratura economica sul settore pubblico, no? Adesso la scuola delle scelte collettive di public choice ci ha ben illuminato sul ruolo della burocrazia, dei gruppi di pressione, dei voti di scambio, ne sappiamo molte di più di prima, forse saremo anche in grado di fare programmazione più realistica e quindi con maggiore probabilità di successo. Certo è che avere buttato via la programmazione è stato un po' assumere quell'atteggiamento, no, che gli inglesi dicono buttar via il bambino con l'acqua sporca. Bisognava probabilmente fare un esame di coscienza molto approfondito su quelli che erano stati i difetti, ma cercare poi di rilanciare, perché credo che ancora oggi sia necessaria un po' di lungimiranza, un po' di programmazione per riuscire a estrarre efficacia dalle risorse che andiamo investendo. Quindi da questo punto di vista il rapporto della Fondazione Zancan in questa parte è un invito molto meditato e convincente a una riflessione sugli strumenti strategici di dirigere verso mete ambiziose ma ben definite l'azione sociale. E passo alla terza parte, quella delle proposte. Beh, il messaggio ormai l'avete capito, è quello del welfare generativo e quindi siamo di fronte, come dire, a un crescendo rossiniano. Da anni ormai la Fondazione Zancan sta insistendo su questo messaggio, che mostra anche di essere recepito, qualche volta mostra anche di essere rubato, come succede normalmente con le buone idee, ma forse questo l'avete già messo in conto, quindi lo trovo questo welfare generativo anche in altri contesti, da altri personaggi che probabilmente l'hanno imparato dalle vostre pagine, senza citarvi, ma sapete che questo è un po' il destino, ecco, dei pionieri. L'importante è che si stia diffondendo questo messaggio, che effettivamente bisogna estrarre qualcosa da queste politiche sociali proprio per dare maggiore efficacia, non soltanto per rispetto delle persone, no? Ricordo nel rapporto dell'anno scorso l'introduzione del professor Dosi citava uno studioso inglese che diceva la povertà non è soltanto un insulto alla coscienza, è anche un insulto alla intelligenza, perché significa avere tante risorse, no, che non sappiamo sfruttare. Ecco, non c'è situazione in cui qualcuno non sia capace di dare qualcosa e dipende da noi saper individuare questo qualcosa di cui è capace e saperlo mettere a frutto. La capacità può essere, e su questo il libro si diffonde abbastanza estesamente, come vantaggi che dà il nucleo familiare, quindi, no, può essere anche l'aiuto dell'individuo che nell'ambito del suo nucleo familiare riesce a migliorare la situazione e quindi a diminuire la necessità di un intervento esterno, ma può essere anche, come è stato illustrato negli interventi che mi hanno preceduto, proprio una capacità che si esplica in qualcosa a vantaggio della collettività, la capacità a dividendo sociale, come viene etichettata nel libro. E quindi bisogna, appunto, questa è la proposta, sistematicamente mettere a frutto questa capacità. Aiuta da questo punto di vista anche la capacità di elaborare a livello di soggetti terzi, quindi di imprese, di istituzioni, la capacità di elaborare rendiconti non finanziari. C'è un bel capitolo di Corbella su questo tema, su cui sta intervenendo anche la Comunità Europea, indicando schemi di riferimento e modalità di attuazione di questo rendiconto non finanziario, che prenderebbe il posto del vecchio bilancio sociale, dando appunto una rappresentazione di tutto ciò che fa l'impresa al di là dei numeri del bilancio di esercizio in cui si condensa l'attività economica, per rappresentare invece tutto l'insieme delle ricadute dell'attività collettiva sulla comunità e sull'ambiente. Quindi è una strada che, come dire, è già stata indicata, è già stata anche approfondita a livello di alcuni strumenti di azione. C'è peraltro ancora molto da fare. E qui comincio a fare anche delle proposte io stesso alla Fondazione Zancan. Per capire cosa c'è da fare, occorre un attimo riflettere su proprio i fondamenti anche teorici di queste problematiche dell'intervento sociale. Da sempre nella letteratura economica ci si è interrogati: è meglio il trasferimento in natura attraverso servizi, quindi, o è meglio il trasferimento in denaro? E ci sono pro e contro. L'economia studia solo problemi di scelta, in cui dunque ci sono obiettivi legittimi ma confliggenti, c'è il pro e il contro. Allora, a favore del trasferimento in denaro c'è innanzitutto il rispetto della libera volontà del beneficiario. A parità di spesa per il donante, dare una somma in denaro significa rendere più felice, o quantomeno altrettanto felice, il beneficiario, che spenderà i soldi secondo i suoi gusti. E quindi da questo punto di vista dobbiamo mettere come un valore, se crediamo al valore della libertà, della libera scelta e quant'altro. E poi c'è un altro grande vantaggio, che è quello della diminuzione dei costi dell'apparato. Non esiste praticamente, o basta un apparato molto minore per erogare trasferimenti in denaro rispetto alla erogazione di servizi. Non per niente, nel valutare il confronto, tutta la corrente liberista, parlo in particolare di Milton Friedman, è a favore di questa visione dell'intervento pubblico, uno schema elaborato ancora negli anni 50, che era stato sepolto ma è riemerso e continua ad esercitare un notevole fascino intellettuale, quello di dire: aboliamo tutti gli interventi, creiamo una imposta negativa sul reddito, fino a un certo punto uno è beneficiario di un aiuto pubblico, oltre un certo punto comincia a pagare le imposte e tutto il resto scompare. Naturalmente anche questo rappresenta un ideale che poi si frantuma a contatto con la realtà. Mi viene in mente l'altra frase famosa: per ogni problema complesso esiste una soluzione semplice, peccato che sia sbagliata. Ecco, allora anche questa maniera di vedere e semplificare le cose effettivamente ha dimostrato la sua portata illusoria. Allora viene in campo la possibilità alternativa: diamo servizi. E i servizi hanno due grossi vantaggi. Il primo è che si dà effettivamente ciò che è. Naturalmente uno può dire: faccio violenza a quella che è la libera scelta del beneficiario, ma si sa, anche il paese più liberista lo deve ammettere nella propria esperienza concreta di politiche sociali, che c'è bisogno, a fin di bene, ecco, di intervenire costringendo a effettuare certe cure, a spendere in certe direzioni anziché in altre, proprio perché uno dei fenomeni purtroppo della povertà e dell'emarginazione è quello anche, no, della incapacità di capire cosa effettivamente possa far bene per se stesso. Quindi c'è una volontà che in buona fede da parte del potere pubblico si sostituisce alla volontà individuale per cercare di fare effettivamente del bene ai beneficiari. Il secondo vantaggio è quello che non c'è tanto pericolo quanto c'è nei trasferimenti monetari di fenomeni di frode. Purtroppo ogni tanto leggiamo che tanti benefici monetari vanno a persone che sono assolutamente immeritevoli, quindi non c'è soltanto lo spreco, c'è proprio, come dire, anche la violenza, no, di vedere risorse limitate che vanno, anziché a beneficio di chi le meriterebbe, a beneficio di chi non le meriterebbe, e anzi, normalmente chi non le merita in tasca questi benefici è perché è evaso. Quindi danno e beffa, voglio dire, dal punto di vista della collettività, che non solo non riceve il contributo da chi dovrebbe darlo, ma poi dà a questo stesso evasore anche un aiuto monetario. Quindi da questo punto di vista dare servizi, no? Dare protezione sanitaria, dare istruzione, dare pasti, dare alloggio, eccetera, serve come freno, perché appunto se uno non ha bisogno non va a prendersi il pasto da Suor Lucia, no? Perché ovviamente preferisce altri ristoranti. In questa maniera, insomma, riusciamo ad avere un grosso vantaggio. Ecco, questo solo per darvi un'infarinatura del dibattito che c'è sempre stato e che naturalmente porta allora ad esiti diversi a seconda di quella che è la situazione complessiva della comunità in cui operiamo. Un paese ad alto tasso etico, in cui quindi ci sia poca paura di evasione, di destinazione immeritata dei benefici, potrà avere una soluzione diversa, razionalmente diversa, da un paese in cui si teme che ci sia una forte evasione, quindi una forte distribuzione dei benefici monetari a chi non li meriterebbe. E d'altra parte, secondo aspetto della questione, un paese che abbia una burocrazia, un apparato pubblico molto corretto e molto efficiente potrà razionalmente adottare una soluzione diversa rispetto a paesi in cui invece ci sia una situazione contraria. Questo per dirvi che i connotati teorici del problema sono facilmente configurabili e sono stati in effetti facilmente configurati, ma dopo si tratta di vedere in che situazione sono io in questo momento storico, in questo paese, rispetto a quei connotati teorici, e dunque qual è la soluzione da suggerire. Ecco, questo è un invito alla cautela, perché, ripeto, non esiste una soluzione che sia invariante e sempre superiore o sempre inferiore. Si tratta di fare il vestito su misura. Allora, è chiaro che noi ci troviamo, da questo punto di vista, di fronte a un grosso dilemma, perché se guardo al primo aspetto della questione, dico, beh, ma qui siamo di fronte a una fortissima evasione. Sappiamo bene che sono molti gli immeritevoli che godono di aiuti pubblici, a cui invece dovrebbero contribuire, e quindi mi rifugio almeno nei servizi, che fanno un po' da filtro. Ma d'altra parte, vediamo ogni piè sospinto che nell'erogazione di servizi qualcosa non va, si forma subito il gruppo di pressione, il gruppo di interessi, l'apparato che succhia risorse anziché fornire risorse. Non c'è campo che non sia stato contaminato dalla corruzione e dall'inefficienza. E allora, signori, rifugiamoci almeno nel trasferimento in denaro che eliminano questi apparati che sono chiamati ad erogare servizi. Vi confesso che in un altro campo, nel campo delle agevolazioni fiscali, no? Io faccio come il professor Dogi scienza delle finanze, io sono sempre stato un difensore delle agevolazioni fiscali in automatico, che uno quindi si calcola nella dichiarazione di redditi, salvo naturalmente poi essere controllato a livello di dichiarazione di redditi, rispetto alle erogazioni creditizie che presupponevano istruttorie lunghe, logoranti, costose e tutt'altro che edificanti. Ecco, quindi da questo punto di vista io avrei quasi una propensione, se dovessi fare, no, il campo di servizi sociali, per i trasferimenti in denaro, proprio perché evitano questa peste di servizi che sono erogati da apparati che diventano fonti di spreco e di corruzione. Però, ripeto, sappiamo che siamo deboli anche sull'altro fronte e quindi un grosso problema. Ecco, quello che mi è piaciuto in tutta l'attività, non soltanto in questo rapporto della Fondazione Zancan, è l'equilibrio con cui la Fondazione in questi rapporti ha sempre affrontato questa questione, consapevole dei pro e di contro che ci sono una volta che guardiamo seriamente ai problemi e alle possibilità di affrontarli. Il bilancio che deriva da questa analisi agli occhi della Fondazione Zancan, peraltro, non lascia dubbi, no? Noi abbiamo un mix in Italia tra trasferimenti di denaro e servizi che è sbilanciato a favore dei primi e a danno dei secondi. Dobbiamo rinvigorire la parte di servizi, perché solo così riusciamo ad avere quella reazione, quel coinvolgimento da parte dei beneficiari che ci assicura di avere i risultati del welfare generativo. Quindi è una analisi consapevole che inserisce, rispetto a quello che la letteratura offriva, che ho cercato di riassumervi, anche questo altro elemento. Non soltanto il costo e il risultato immediato del trasferimento in denaro o in servizi, ma anche la reazione del beneficiario. E quindi da questo punto di vista il canale di servizi ha indubbiamente un vantaggio in più. Questa è naturalmente la conclusione che appare convincente, dopodiché rimane sempre, in forza di quanto ho sin qui detto, il problema della calibrazione, perché di sicuro noi andiamo alla ricerca di un mix ottimale, non è che la soluzione stia in un estremo o nell'altro estremo. Andiamo alla ricerca di un mix ottimale. Allora, la mia osservazione conclusiva è che per riuscire a spostare, come auspica la Fondazione Zancan e come sostiene con argomentazioni molto fondate e convincenti della sua opera ormai pluriennale, per spostare dunque questo mix verso i servizi, bisogna dare molte più prove di capacità di organizzare i servizi mantenendo un livello, diciamo, normale, quello che è il livello di inefficienza, di spreco, di corruzione. E allora su questo aspetto i prossimi rapporti della Fondazione Zancan. E la sfida è, dopo aver dimostrato le necessità che emergono dal nostro corpo sociale e dopo aver dimostrato le potenzialità del welfare generativo, dimostrare anche che pur in questo benedetto paese, no? Che amiamo così tanto, ma che a volte ci porta a conclusioni veramente sconfortanti, siamo in grado di gestire il welfare generativo. Auguri. Grazie. Grazie molto, professore, per il suo intervento. E invitiamo ora a parlare alcuni degli autori del rapporto e alcune persone che sono presenti qua in sala che hanno piacere a fare un breve intervento, ecco, di commento a quanto hanno sentito, agli spunti che il professore ci ha offerto. E invitiamo quindi a parlare Don Marco Cagol, che è vicario episcopale per le relazioni con il territorio. Grazie. Ecco, si tratta di interventi brevi, così diamo la possibilità un po' a tutte le persone di esprimersi. Ecco, grazie. Grazie, buongiorno. Sono contento, ecco, di dire una parola e di apprezzare ovviamente la giornata, di fare memoria anche di questi coloro che io chiamo patriarchi, ecco, della nostra Chiesa e anche della nostra società, Don Giovanni e Don Giuseppe, che ho avuto la fortuna di conoscere e che mi hanno anche accompagnato nei primi passi in questo ambito. Io accenno solo a una cosa, anche d'accordo un po' con Tiziano, così proprio per, come notizia, ecco, come cronaca anche, ma anche come spunto di riflessione per la nostra città. Ecco, insieme con la Fondazione Zancan e con la diocesi, su spinta proprio del Vescovo di Padova, abbiamo avviato un piccolo o grande progetto che si chiama Cantieri di Carità e Giustizia, che è arrivato già alla seconda tappa, nel senso che abbiamo fatto un primo passaggio in cui abbiamo voluto far memoria di tutte le opere o le realtà di carità che nella nostra città si sono trasformate in opere di giustizia, in infrastrutture anche sociali di giustizia. E poi abbiamo costruito, o meglio la Fondazione Zancan ha costruito, una mappa di tutte quelle forze che in città si prendono cura e hanno a cuore i poveri, le persone in situazione di povertà economica. E credo che sia, ecco, un passo interessante. Fra qualche giorno verrà pubblicato, ecco, il secondo fascicolo di questo progetto, che proprio ci restituisce una fotografia di una ottantina di realtà che nella nostra città sono a disposizione, svolgono azioni di contrasto alla povertà. Ecco, l'idea è quella di aiutare anche tutte queste realtà a mettersi nella prospettiva del welfare generativo, cioè di, come dire, di fare sempre di più e sempre meglio, come dice il Vescovo Claudio, rispetto all'aiuto alla povertà. E allora qui l'unica pensiero, ecco, l'unica riflessione che faccio è questa. Effettivamente la fotografia di tutte queste realtà che si fanno carico delle povertà nella nostra città fa una certa impressione, ecco, una impressione positiva. E allora credo che nella riflessione anche molto locale, perdonatemi se sto nel locale, ecco, rispetto alle prospettive di welfare della nostra città, credo che chiunque fra qualche mese prenderà in mano la macchina comunale e l'amministrazione comunale, ecco, potrebbe veramente ricordarsi e aiutare e accompagnare in maniera intelligente questo processo di trasformazione e anche di crescita di queste realtà che si fanno carico della povertà. Credo che in quella riflessione, diciamo, bivio che anche il professor Muraro sottolineava, la scelta tra trasferimenti monetari e erogazione di servizi da parte degli apparati pubblici ci sia anche, diciamo, la possibilità che tutta una serie di realtà eroghino servizi, ecco, senza costruire eccessivi apparati, ma facendo leva su una dimensione, diciamo così, motivazionale molto forte, ecco, che anima tutte queste realtà. Ecco, questa integrazione, questo accompagnamento reciproco tra il pubblico e tutte queste realtà di privato sociale che sgorgano proprio spesso anche da profonde motivazioni di fede, ecco, profondamente di fede, ecco, sia un elemento da non trascurare e probabilmente anche da far evolvere. E sarebbe interessante anche che appunto questo avvenisse grazie anche a politiche lungimiranti, ma sia proprio un tesoro, come dire, un patrimonio che andrebbe forse fatto reso un po' più visibile e potrebbe in un qualche modo anche farci uscire da alcune strettoie anche nella nostra città rispetto all'aiuto verso coloro che sono in situazione di povertà. Ecco, una piccola segnalazione di questo progetto, credo che ci stia dentro anche questa giornata, questo panorama, anche con questa piccola sottolineatura. Grazie e buon proseguimento. Grazie. Grazie. Invitiamo ora a parlare la professoressa Elisabetta Neve, che è docente di servizio sociale all'Università di Verona ed è collaboratrice della Fondazione Zancan. Grazie. Grazie Giulia. Molto velocemente, nel rapporto io mi sono occupata di scrivere qualche cosa sulle professioni. È apparso molto chiaro anche dagli interventi degli studenti come tra i diversi livelli che sono coinvolti in questa visione innovativa, piena di speranza del welfare generativo, fra i vari livelli, dicevo, istituzionali, indubbiamente uno dei nodi centrali riguarda proprio il livello molto concreto, operativo, di coloro che stanno sul front office e quindi realizzano un certo tipo di rapporto tra il sistema di welfare e le persone, i cittadini che hanno bisogno, che vengono a chiedere aiuto. Partendo da questo punto di vista, ci è sembrato che ci siano due domande da porci, sulle quali era importante soffermarsi e magari sarà importante in futuro anche sviluppare maggiori riflessioni. Una domanda è, ma allora, se è vero, come hanno dimostrato molto anche le tesi, che in una ottica di generatività assumono grande importanza quegli elementi che chiamiamo risorsa, risorsa, capacità, potenzialità, a fronte invece di quell'enfatizzazione di ciò che è problema, limite, deficienza, mancanza, come è nel welfare tradizionale. Allora, se è vero questo, c'è però da chiedersi, ma quali risorse? Quali capacità? Ci sono delle risorse che per loro natura sono destinate a consumarsi, il denaro. Ci sono delle risorse che invece per loro natura hanno proprio un potenziale di generatività. Allora, su questo abbiamo fatto un po' di riflessioni, non ve le dico, bisogna leggere. L'altra domanda è, ok, e allora chi maneggia queste risorse, e cioè coloro che appunto stanno sul front office, che cosa devono fare? Come si devono comportare? Che capacità devono avere o acquisire perché davvero si realizzi quella prospettiva generativa di cui stiamo parlando? Allora, da questo punto di vista, il ruolo dei professionisti, secondo noi, si gioca sia sul fronte di una esigenza di rilettura, quindi anche di rivisitazione del DNA stesso delle professioni, che devono chiedersi, ma come leggiamo i problemi delle persone, i bisogni con cui le persone accedono ai servizi e che legame tra questi problemi e le potenzialità, le risorse, le parti sane rimaste nelle persone dal momento che anche, visto che è stato evocato più volte, dal punto di vista etico non possiamo non credere che qualsiasi persona, finché è persona, finché ha vita, ha comunque delle risorse, delle potenzialità, delle possibilità. Su il come fare, allora, di conseguenza, emerge tutta una esigenza di rafforzamento, per certi versi, di capacità che le professioni, intendo professioni sociali, sanitarie, educative, che le professioni già hanno, dicevano, il loro DNA, ma che probabilmente possiamo spingere ancora di più, potenziare ancora di più, fino, si diceva con uno slogan per fare presto, a fare in modo che le persone imparino ad aiutarsi da sé, ma addirittura mettano le loro capacità e risorse a disposizione di altri. Ecco, credo che su questo ci sia ancora tanto bisogno di riflettere, di pensare, ma anche altrettanto almeno di provare, di sperimentare e proprio dalla sperimentazione ricavare ulteriori precisazioni, dettagli e eventuali rettifiche di questa prospettiva. Grazie Elisa. E invitiamo ora a parlare Mino Spriafico, che è professore di pedagogia all'Università Cattolica di Brescia e all'Università di Torino. Grazie. Grazie a tutti, grazie al direttore e al presidente della Fondazione. È un onore per me essere qui. Mi sono avvicinato alla Fondazione da tempo, ho studiato e fatto studiare tutti i rapporti di lotta alla povertà e il welfare generativo è veramente un tema molto, molto interessante. Ho accompagnato studenti in tesi di pedagogia, quindi tutto quello che è l'educazione dell'adulto, la formazione manageriale, l'accompagnamento dei disoccupati. Il mio pensiero, mi piace molto quello che ha detto il professor Muraro, c'è molto da fare, cioè io trovo che c'è molto da fare. La coniugazione che io ho fatto è di welfare generativo e lavoro, o meglio di welfare generativo e non lavoro. Dico questo e così richiamo le piste che si sono aperte nel mio campo, quello della pedagogia, quindi dell'accompagnamento dell'adulto nella trasformazione, della pedagogia e delle altre scienze umane, quindi non si tratta di mettersi un cappello. Allora, noi sappiamo che in Italia ci sono circa 22 milioni di persone che lavorano e circa 5 milioni che non lavorano e le proiezioni dei sociologi del lavoro, dell'economia, ci dicono che questi numeri non cambieranno, semmai la tribù, la quota delle persone che hanno lavoro si eroderà sempre di più. Siamo di fronte a una società che ha come dire, delle trasformazioni molto veloci nel lavoro, quindi ci sono molte persone che chiamiamo disoccupate, io e altri preferiamo chiamarle persone adulti che transitano nell'area del non lavoro. In ogni città ce ne sono, ci sono famiglie che... adulti che si sono impoveriti, l'aumento della povertà di adulti a rischio di povertà è di circa il 30% negli ultimi 20 anni rispetto al 1995, dove gli adulti a rischio di povertà erano circa il 5%. Quindi siamo di fronte, come ha detto il professor Dosi, a un'emergenza sociale. Di tutto questo io mi occupo di un pezzettino che cerco di continuare a stare in questo settore insieme anche ad altri collaboratori, il tema della disoccupazione, delle persone che stanno nel non lavoro. Ecco, ci accorgiamo che applicare il modello di welfare generativo, che non è economico ma è di tipo sociale, di tipo psicosociale, quindi non usa risorse, è veramente geniale e creativo, cioè ci si approccia alle persone che sono in quella situazione che la Cristina Braida ha detto molto bene, cioè sono in una sorta di disintegrazione psicosociale, psicologica, si sentono senza identità, si sentano senza la possibilità di mettere firma in ciò che fanno, no? Ecco, dire loro che sì, ci sono delle risorse economiche, come ha detto il professor Muraro, non è possibile poi risolvere solo con un accompagnamento, quindi le risorse economiche servono anche, ma l'accompagnamento, le tre R, responsabilizzare, rigenerare e rendere, sono molto più potenti di qualsiasi sussidio nella nostra esperienza. Sono molto più potenti in che senso? Ingaggiano le persone nella loro completezza. La persona è completa, è una ricchezza al di là di ciò che riesce a produrre. Si tratta di recuperare questa lentamente, questa identità, questo nucleo della persona, eccetera, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa vuol dire? Che ci sono le politiche attive, le politiche passive del lavoro. Alcune politiche attive cominciano a rigenerare le persone, ma sono ancora di tipo economico, di trasferimento di risorse. Il SIA, cioè in Italia abbiamo tanti dispositivi per andare incontro ai non occupati. L'ultimo pensiero è questo. C'è molto da fare. Noi ci siamo accorti in un'esperienza insieme a Fondazione Zancan, a Cremone in particolare, dove su un campione di non occupati si sono messi a lavorare insieme servizi sociali e centri per l'impiego. Non è consueto perché sono due parrocchie che in alcuni territori non si parlano, soggetti quindi accompagnati, ai quali è stato proposto, come dire, la cultura del welfare generativo, ed è stato fatto un percorso di empowerment, quindi di questa parola che sembra un po' magica, anche declinata in modo sbagliato, a volte abbiamo trovato delle persone che si sono rigenerate. Siamo arrivati a un punto però, una frontiera da attraversare che stiamo esplorando, che è quella di creare dei gruppi di mutuo autoaiuto di persone in assetto di empowerment, cioè sembrerebbe che la persona rigenerata ha bisogno di socializzare con altre persone in modo autonomo, quindi non soggetti trattati dai servizi, ma adulti che creano dei gruppi di empowerment sociale. Insieme ad alcuni qui in quel luogo di Cremone, finisco, ci sono due schieramenti. Alcuni dicono i gruppi di mutuo autoaiuto sono per le dipendenze, sì è vero, e quindi non li applichiamo. Altri dicono però in questo caso i legami che si creano potrebbero essere, dando sponda a questa formula, quindi di gruppi di empowerment sociale sul modello. Ci siamo accorti che ci sono delle potenzialità. Ricerche recenti ci dicono, dall'Università del Michigan, dai centri per l'impiego della Germania, che l'essere nel non lavoro, ad esempio, trasforma la personalità. E questo è un dato che va considerato, che la socializzazione, il senso del lavoro cambia nella storia dell'esistenza di tutti noi, da quando si è a scuola, all'università, quando si ha successo, quando non si ha successo. L'elaborazione di questo senso del lavoro, che poi in azienda viene chiamata motivazione al lavoro, che è un fattore determinante nel successo delle imprese, viene studiato dalla formazione manageriale. Ecco, gli studi che vengono in qualche modo utilizzati per formare, io dico i manager, per formare la quota dei 22 milioni che lavorano, potrebbero essere applicati, tradotti, declinati, vicino alle persone che non lavorano. Cosa dico dunque? Che c'è un livello culturale che il welfare generativo sicuramente ha aperto e trova consenso. Voi parlate, noi parliamo con i non occupati e troviamo adesione, anche solo per il fatto, anche se non fanno volontariato, di ritrovarsi, di uscire di casa, vedersi insieme, stare insieme delle mattine, avere il rito, no, di uscire di casa e recarsi al gruppo di empowerment, uscire di casa e incontrarsi, quasi lo cercano, no, in questi gruppi di, molto simili ai gruppi di mutuo autoaiuto. Ecco, c'è un discorso culturale che ci sembra valga la pena portare avanti. C'è poi da aprire tutto un filone di ricerca, diciamo psicosociale, psicosociologica, chiamiamola come vogliamo, per migliorare la tecnica per empowerizzare le persone. E qui empowerizzare nel senso per far rendere stabile la rigenerazione delle persone. Io qui insieme ad altri, a uno psicologo del lavoro, Giuseppe Scaratti dell'Università Cattolica di Milano, ad altri psicologi del lavoro, stiamo seguendo questo filone e ci sembra che dia degli interessanti risultati verso gli adulti. Quindi il fatto che la Fondazione Zancan continua a marcare questo concetto, nonché a mettere, non voglio io celebrare, l'avete già fatto voi, però a mettere a sistema questa cultura nella dimensione giuridica, l'azione corrispettivo sociale, ora probabilmente nei servizi sociali, io dico anche nel mondo del lavoro che cambia, sicuramente apre un campo di sperimentazione, di ricerca molto, molto fertile, e io personalmente mi ci dedico, ecco, volentieri, e gli studenti anche. Grazie. Grazie Mino. Invitiamo ora il dottor Luigi Corbella, che è commercialista ed esperto di no profit ed è coautore del rapporto sulla lotta alla povertà. Grazie. Buongiorno a tutti. Io me la cavo con un hashtag, una parola, impronta. Ho preso tanti appunti e mi pare che questo termine sintetizzi molte delle cose che ho sentito. L'impronta è l'orma che lasciamo impressa sul terreno, nel nostro incedere, che non è sempre uguale, che dipende dal nostro passo, dalla velocità, da quanto siamo leggeri o pesanti, e dipende anche dal terreno sul quale stiamo camminando. Ma l'impronta è anche lo stile, il messaggio, il profumo che emaniamo e che ci fa leggere, ci fa comprendere dagli altri. Ecco, io credo che il passaggio alla maturità, e qui tutti hanno evocato un sistema che va nella direzione di una maturazione, sia la maturità e consapevolezza, quindi è la capacità o l'accettare in qualche modo di lasciare che sia la nostra impronta a farci leggere, cioè non sia quello che noi vorremmo che anche in buona fede emergesse di noi, ma quello che abbiamo, gli effetti reali che abbiamo prodotto sulla vita delle persone. Sono istanze che diciamo stanno diventando quasi dei luoghi comuni nella logica dei dispositivi culturali che innervano un po' la nostra tutti i passaggi anche mediatici. Dice la Fondazione Zancan, in che cosa la Fondazione Zancan ha migliorato la mia vita, il mio modo di lavorare, di assistere, di pensare. Ecco, questa istanza è un'istanza alla quale il terzo settore è chiamato anche da un punto di vista normativo. La riforma, diciamo, in itinere del terzo settore vuole che sia misurato l'impatto sociale prodotto sulla vita reale delle persone e che sia la misurazione di questo impatto anche a creare una gerarchia di merito, per esempio per quanto riguarda l'accesso alle agevolazioni fiscali. Ecco, contemporaneamente, con una strizzata d'occhio tra due soggetti che normalmente non si usano molto, il terzo settore, il privato sociale e il mondo profit, anche le imprese, a partire da quelle di più grandi dimensioni, sono chiamate a raccontare quali sono stati gli effetti delle loro azioni sulla vita delle persone. Ecco, quindi torniamo a questa immagine dell'impronta, che è, ripeto, orma, ma è anche profumo, stile. Ecco, questa è l'idea che a me è sembrato così utile portare al rapporto della Fondazione. Grazie, grazie a voi. Grazie. Grazie. Invitiamo Franco Piacentini, che è presidente dell'Auser Veneto. Grazie. Grazie, buonasera a tutti. Ho ascoltato con molta attenzione i vari interventi e la presentazione. E avete iniziato questo incontro portando delle parole molto significative. Io credo che se fosse qui con noi Monsignor Nervo avrebbe anche detto, o meglio avrebbe usato la parola anche giustizia, perché welfare, diritti e doveri, se non c'è giustizia, molto probabilmente non reggono, E quindi credo che il tutto si basa, se partiamo da questa, anche da questa parola. La seconda brevissima testimonianza che mi sento di portare, essendo un rappresentante del mondo del volontariato, in questi giorni, proprio in vista del 21 di marzo, ho riletto questo libro di Monsignor Nervo, Ha un futuro il volontariato. L'ho riletto perché? Perché in altre testimonianze, in altre riflessioni, Monsignor Nervo ci diceva che guai se il volontariato pensa di sostituirsi al ruolo delle pubbliche amministrazioni, al ruolo delle responsabilità di chi ha il dovere, in quanto soggetto democraticamente eletto, di programmare e di riconoscere i diritti alle persone. E lo dico questo perché in questo periodo di grande difficoltà molti pensano che la famosa scappatoia, come suol dire, o il famoso ancora di salvataggio, sia proprio guardando al volontariato. Sarebbe l'errore mastodontico, perché non si troverebbe quella soluzione che invece chi è in condizione di povertà, di disabilità, di non sufficienza chiedono. L'altra riflessione veloce che socializzo con voi è il provvedimento recentemente approvato di contrasto alla povertà. Diciamo l'ennesimo provvedimento tampone, questa è la mia opinione. Allora, ci sono degli obiettivi nobili, perché io, Stato, do a te, persona povera, una cifra, una quota, affinché tu possa uscire dal tuo stato di povertà. Ma siccome parliamo di povertà, non è una povertà circoscritta alle persone anziane, magari con pensioni di reddito molto basso, ma sono soprattutto le persone giovani o adulte. Se contestualmente tu, soggetto che sei chiamato a legiferare, non programmi le politiche attive del lavoro, dell'occupazione, non risolvo questo problema. Allora, dico questo perché se non sciogliamo questo nodo purtroppo annoso e storico della logica assistenzialistica, inevitabilmente rimaniamo sempre in quella difficoltà, perché questo paese ha questa impostazione assistenzialistica. Anche le cose che diceva in maniera molto chiara e precisa il professor Muraro, trasferimenti monetari o erogazione di prestazioni, rimarranno sempre due nodi fin tanto che non sciogliamo quello principale. Se questo paese continua a orientarsi verso questo intervento assistenzialistico. Ti do due soldi, così stai bene, stai tranquillo. Allora, anch'io mi permetto di indicare un'idea, mettiamola così. Lo dico perché il welfare generativo da qualche anno è entrato dentro anche la discussione dell'Hauser. Grazie alla mia, se volete, presenza in qualche iniziativa della Fondazione Zancan, grazie all'elaborazione della Fondazione Zancan, è entrato dentro il welfare generativo anche nei documenti congressuali dell'Hauser, che in questi giorni sta svolgendo e che il 23 e il 24 svolgeremo anche quello regionale. Allora, io credo che la difficoltà del passaggio da un percorso di erogazione monetaria o finanziaria a un riconoscimento dei diritti delle prestazioni sia dettata da questa difficoltà nel mettere al centro i livelli essenziali. Mi fermo ai livelli essenziali perché non dico sanitari o delle prestazioni sociali, perché dobbiamo stabilire perché se sono una persona malata ho diritto al medico, all'infermiere, al chirurgo, al fisioterapista, quindi ho diritto a delle prestazioni professionali. Se a un certo punto, probabilmente ci arriverò anch'io, divento un soggetto con l'Alzheimer, questi diritti di prestazioni, quindi di lavoro, scusatemi se sono esplicito, mi vengono a mancare, non ne ho più diritto. Allora, perché non si sperimentano, eccola, se mi permettete la proposta, può essere anche puerile, ma vediamo se riusciamo a costruire qualcosa, perché non sperimentare coinvolgendo le famiglie che magari hanno qualche congiunto con demenza senile o con Alzheimer, di dire, invece di beneficiare sempre di questa indennità di accompagnamento, perché questa indennità di accompagnamento o la pensione di invalidità non la depositiamo in un fondo presso gli uffici dei servizi sociali del comune e vediamo come organizzare, programmare interventi invece di aiuto alla persona e di aiuto alla famiglia. Ecco, ritorno alle politiche attive del lavoro sul versante sociale. Io vi chiedo scusa se ho schematizzato e se volete forse anche brutalizzato il ragionamento più complicato, più complesso e più difficile magari della Fondazione Zancan sul welfare generativo. Però ho cercato anche in questi anni di capire come tradurlo con qualche esempio pratico, se no altrimenti rimaniamo sempre in un ragionamento pur importante ma molto spesso teorico. Grazie. Molte grazie. Invitiamo ora il dottor Maurizio Schiavon, che è responsabile del Centro di Medicina dello Sport e delle Attività Motorie dell'azienda ULSE Euganea. Grazie. Grazie, ma a questo punto io mi chiederei cosa c'entra un medico dello sport in questa... Ho seguito con grande interesse, con grande attenzione, ho cercato di portare a casa qualche cosa di tutto quello che... Cosa c'entra? Che addirittura noi ci interessiamo solo di idoneità sportiva agonistica, tutela sanitaria, poi... Andando nel tempo, mi ricordo 5 anni fa, quando sono stato contattato dalla Fondazione Zancan, ho detto, ma scusate, ma cosa c'entriamo? Non c'entriamo proprio un bel niente. Anche perché mi avevano letto il titolo di questo studio longitudinale, che all'inizio non capivo bene, e c'era scritto costruire relazioni ed esperienze condivise con empatia, responsabilità ed entusiasmo. Poi, tra l'altro, se proprio devo fare il paragone, io mi interesso soprattutto di giovani, adesso quelli di adulti, anziani, quelli con Alzheimer, onestamente. Poi ho capito invece il titolo. Mettendo insieme le abbreviazioni viene fuori crescere. E allora ho capito anche che uno studio di questo tipo, longitudinale, non era mai stato fatto al mondo. Cioè noi vediamo sportivi, ne vediamo 8-9.000 all'anno e li seguiamo nel tempo. Però che si fosse puntato a vedere la crescita, cioè partire dagli 11 anni fino ai 18 anni, non c'era mai stato. E allora lì ho capito, ma forse qualcosina possiamo fare anche noi, oltre a tutto quello che fanno loro, ovviamente, come valutazione psicologica, i rapporti con la famiglia, i rapporti con la scuola. I medici dello sport cosa fanno? Fanno le visite. Allora noi abbiamo cominciato a misurarli, peso, altezza, circonferenza addominale, il body mass index, la distribuzione della massa corporea, lo stadio puberale, la spirometria, a proposito, l'elettrocardiogramma, la prova da sforzo. A chi faceva sport agonistico gli abbiamo detto potete andare, gli diamo anche il certificato agonistico. A chi non lo faceva gli diciamo guarda, ti diamo il certificato non agonistico. E siamo andati a vedere anche cosa fa lo sport? Cosa fa l'attività? Tutti parliamo bene dell'attività motoria, cioè ci farebbe bene anche a noi, siamo qua fermi da 2 ore e mezza. Però come possiamo indurre dei cambiamenti a livello dei ragazzi e nelle famiglie? E ci siamo adoperati, per esempio nel momento in cui venivano gli dicevamo guarda, se tu fai poco o niente, fai un giretto in bicicletta, è troppo poco. Cerca di avvicinarti al mondo dello sport, perché il mondo dello sport, se preso bene, può darti degli insegnamenti molto costruttivi, perché riesci a programmare, riesci a crescere bene. E difatti, dopo, alla fine, la conclusione, non voglio togliere altro coso, è crescere, l'obiettivo nostro è crescere bene. E che ci sia un interesse da parte della Fondazione Zancan e tutti quelli che ovviamente collaborano a vedere come si può far crescere meglio, non solo bene, meglio i nostri giovani, credo che sia un investimento anche per il futuro. E grazie quindi della collaborazione. Grazie molte. Invitiamo ora a chiudere Don Antonio Cecconi, che per molti anni ha collaborato in Caritas con Don Giovanni e con Don Giuseppe. Grazie. Grazie per questa parola che mi viene data un po' così a... No, a tradimento non si può dire, ma insomma... Comunque è stato... ringrazio per questa memoria di Don Giovanni e Don Giuseppe e il fatto che sono state richiamate molte volte quello che diceva Don Giovanni sulle germe terminali, no? E quindi... E mi pare che il welfare generativo sia una di queste germe terminali. Se ho capito la lezione di oggi è che la prima risorsa del welfare generativo è la persona. E provavo però a pensare dei volti, delle storie di persone delle mie parrocchie, in un contesto, un comprensorio 6.500 persone, coincide col comune, quindi con l'assessore alle politiche sociali, magari più volte alla settimana ci sentiamo, ci vediamo. E però, ecco, cosa vuol dire? Che le persone sono il primo, la prima risorsa del welfare generativo, ecco. Penso a una storia che si è risolta, che si è sviluppata bene, di una persona che dormiva in macchina e poi gli è stata data fiducia, gli è stata data un'abitazione dignitosa col compito che la curasse bene, e ora è un volontario molto attivo nella misericordia locale. Lì è veramente una persona rigenerata, ecco, che anche ha acquistato anche un credito anche di fronte così alle persone del paese, della comunità. Penso però con sofferenza e con preoccupazione a diverse persone, genitori, adulti, che non riescono a essere generativi per sé e per i loro figli. Cioè, ecco, questo è un problema serio. Cioè, e vedo che c'è una emarginazione che si riproduce. C'è una riproduttività in negativo, e come fare a spezzare questa catena? Ecco, lo pongo come questione, perché veramente, cioè, i minori, non accompagnati, minori italiani accompagnati male, ecco, da genitori che non si sa neppure stimolando, intervenendo, ecco. Quindi propongo un nuovo capitolo di studio, ecco, così. E buon lavoro davvero a queste belle cose che la Fondazione sta facendo. Grazie. Ora ci avviamo alle conclusioni e lasciamo la parola al dottor Vecchiato, direttore della Fondazione Zancan, che chiude appunto con un intervento dal titolo "Il futuro del welfare riparte dall'incontro tra generazioni". Bene, il dottor Schiavone si è appena rimproverato, ha detto che siamo seduti da troppo tempo e quindi io stringerò al massimo le conclusioni a partire da una domanda. Il professor Muraro ha commentato il rapporto e il titolo, lo ricordate, "Poveri e così non sia". È una scelta in un momento in cui molti hanno salutato con soddisfazione il fatto che il nostro paese, per legge, quindi è costretto a farlo, ma poi le scappatoie si trovano sempre, voglia fare un piano di lotta alla povertà. E quindi il rapporto si chiede: ma è possibile un piano di lotta alla povertà? Se guardiamo gli ultimi 30 anni, no. Se andiamo indietro nel tempo, sì. Se andiamo al 1949 e poi guardiamo fino al 1963, sono 14 anni. In 14 anni hanno fatto 560.000 case, consegnate 560 alloggi a settimana a 350.000 famiglie, dando lavoro a 600.000 lavoratori. Quindi fuori dalla povertà 2 milioni, forse 3, perché 600 più 3 è 50, erano famiglie numerose. Provate a immaginare in 14 anni che tasso di abbattimento della povertà nel nostro paese. Gli ultimi 14 anni, 19 anni, 20 anni, abbiamo ridotto di una unità i poveri nel nostro paese? Assolutamente no. Quanto abbiamo speso? Beh, il rapporto lo dice. 19 miliardi in più della spesa corrente. Quindi siamo degli incapaci totali. Allora, l'idea stessa che nel nostro paese si faccia un piano di lotta alla povertà fa paura. Perché vuol dire che ci decideremo di allocare altre risorse senza rendimento, e dopo quello che abbiamo sentito dal professor Dosi, cioè che siamo veramente degli erode fra noi nei confronti delle nuove generazioni, dei bimbi 03, 06, 018. Ecco, vuol dire rendere ancora più disuguale la nostra società. La sto facendo tragica, ma nella sostanza, finché ha funzionato la programmazione in Italia, finché c'era da costruire cose per contenere le persone o per far viaggiare le persone, l'autostrada del sole. Dopo una certa era geologica abbiamo avuto bisogno di decenni per fare un passante. Parlo del Veneto, non un'autostrada del sole. Perché il passaggio dal costruire con la programmazione cose al costruire forme sociali per gestire i problemi, affrontare i problemi, quindi non più mattoni di pietra ma mattoni umani, non siamo più stati capaci. E allora abbiamo chiesto ad Alfred, cioè nel colloquio che c'è nel rapporto, abbiamo chiesto: ma professor Kahn, lei ce l'aveva insegnato, cos'è che non abbiamo capito? E lui ce lo spiega. Dice: da noi, negli Stati Uniti, Kennedy ha fatto un piano per la salute mentale. Con il Pentagono abbiamo inventato una metodica per programmare a budget, eccetera. Ce le racconta tutti. Abbiamo inventato gli uffici di cittadinanza, li chiameremo l'accesso unico ai servizi alle persone, in italiano. E ce le racconta tutte. E poi il rapporto si chiede: ma perché allora noi non riusciamo? Beh, una ragione è abbastanza, come dire, profonda. Ci hanno allattato a pensare in un certo modo. Ci siamo abituati a pensare in quel modo. E lì nel rapporto c'è un capitolo, Logic Model. C'è il modello per pensare la programmazione stessa. Com'è che pensiamo la programmazione, l'innovazione? Beh, facilissimo. Input, output. Quindi perimetro, chiuso. Cartesio ce l'ha insegnato, faccio un piano cartesiano, input, output. Non c'è eccedenza in questo modo di pensare. C'è controllo dei fattori produttivi in ingresso e controllo delle produzioni in uscita. Non ho bisogno delle persone, non ho bisogno del fattore moltiplicativo che si chiama lavoro professionale. Posso fare trasferimenti. E in questo modo noi abbiamo bruciato 19 miliardi. Adesso col SIA ne stiamo bruciando ancora, poi con la prossima misura ne bruceremo ancora. Perché quanto vale la spesa per assistenza sociale? Se voi leggete il rapporto precedente o quello prima ancora, era scritto 50 miliardi, non poco. Sono 800 euro pro capite. Quindi roba. Ma se voi guardate gli ultimi dati Istat, quanto vale la spesa per assistenza sociale? 58 miliardi. Maria Bezze, una delle autrici, ha fatto un salto sulla sedia. Ma come? Non ci siamo accorti che dall'anno all'altro sono schizzati 8 miliardi e tutti dicono non ci sono risorse. Addirittura tutti discutono, il fondo per la non autosufficienza l'hanno tagliato di 50 milioni, 100 milioni, e tutti a stracciarsi le vesti, a correre a Roma e il forum del terzo settore col portavoce a dire non è possibile, eccetera, eccetera. E gli 8 miliardi? E l'abbiamo chiesto all'Istat, avete sbagliato? Reticenti. Poi dopo sono umani anche all'Istat e quindi hanno risposto, ma no, sono gli 80 euro. Quindi 8-9 miliardi all'anno per 3 anni moltiplicate per 3. Allora, come abbiamo sentito molto bene, non è che ci mancano le risorse, assolutamente. Quando si vuole e sono conteggiate al millimetro anche dall'Istat. A questo punto vado a chiudere il rapporto, quindi per 167 pagine va a capire cosa abbiamo a disposizione, dove sbagliamo, perché sbagliamo, quali sono gli errori che facciamo sistematicamente, i modi di pensare che ci impediscono di essere generativi ma solo redistributivi. E quindi c'è una, come dire, un vademecum molto dettagliato. Vuoi sbagliare? Fai così. Regioni, fate così. Quanto spendono le regioni oltre i 58 miliardi? Un altro miliardo. Perché ogni regione sta mettendo un reddito. Perché un reddito non si nega a nessuno. In Lombardia, in Friuli Venezia Giulia, eccetera. Probabilmente il punto più avanzato ce l'avremo in provincia autonoma di Trento, che dal 1 di luglio diranno a tutti i residenti trentini siamo stufi di darvi tanti redditi, tante detrazioni, tanti, ve ne diamo uno solo. Unifichiamo tutto. Al che io la scorsa settimana ho detto al vicepresidente che si occupa di lavoro, quindi non è l'assessorato del welfare, è proprio il modo, come ha detto Mino prima, di pensare l'economia, il lavoro, l'economia di welfare, eccetera. E gli ho detto, ma ce la farete? Ovviamente lui ha giurato di sì. Ecco, vedremo. Tanto nel prossimo rapporto andremo anche, perché forse è la prima volta in Italia che si unificano i rivoli, a Milano ce ne sono più di 60 rivoli per avere aiuti economici se uno è in condizione di difficoltà. Ma allora, le proposte quali sono? Beh, sono nelle ultime 5 pagine. Cioè, se volessimo fare un piano di lotta alla povertà generativo, come potrebbe essere? Salto tutti i passaggi, ce li hanno insegnati gli studenti e poi li abbiamo sentiti in altri modi. Potrebbe essere così. Il rapporto dice, siamo in un paese in cui non si abbattono le disuguaglianze, ci sono diritti senza dovere, c'è gente che ha diritto anche se non ne ha bisogno, eccetera, le cose che insomma sono molto difficili da aggredire perché ci vuole tanto, tanto coraggio etico e poi politico. E si dice, ok, 58 miliardi di spesa, quanta spesa si potrebbe riconvertire di questi 58 miliardi? Almeno 25 miliardi. Cioè prendere un piano decennale e provare a riconvertire 25 miliardi. Ma e quali sono? È facile. Prendiamo 6 miliardi degli assegni familiari. Per chi sono? Per lavoratori a basso reddito con figli. Quindi sono dei figli quei soldi. Benissimo. Diciamo a quei genitori, se fate un fondo infanzia, avrete delle agevolazioni, poi ve le diremo, e li trasformate in servizi. Allora, i genitori che hanno bimbi 0-3 diranno, ma noi quanti soldi abbiamo? Tranquillo, 1,5 miliardi. Cosa puoi fare con 1,5 miliardi? Beh, puoi creare 40.000 posti di lavoro per donne. Ne hanno bisogno le donne di lavorare. E come? Ci sono donne senza lavoro che se lavorassero non sarebbero più povere? Sì. Madri di quei bimbi? Di sicuro. Bene, 40.000 posti di lavoro. Ma quei 40.000 posti di lavoro, quanti opportunità darebbero ai bimbi che non hanno accesso ai servizi prima infanzia? Beh, 200.000. Avremmo raddoppiato l'accesso ai servizi prima infanzia. Ci sono tutti gli studi di fattibilità che documentano, quindi non sto vaneggiando. Li abbiamo fatti e anche presentati prima di questo rapporto. E a questo in questo modo tu crei forme sociali per affrontare il problema e mettere ad investimento i soldi. Ma qualcuno dirà, fermo, ma allora tu togli il diritto a quei genitori? Io non ho mai detto che tolgo il diritto. Il rapporto non lo dice, la Fondazione Zancan non l'ha mai detto. E allora? Beh, allora si passa dalla solidarietà fiscale, che ti mette a disposizione risorse, e voi avete diritto, siete una mutua. Fate come nel welfare aziendale, mettete a rendimento il beneficio di quel diritto. Difficile? Non lo so, non credo. Diventa un fondo di investimento, voi siete gli azionisti, l'anno prossimo riceverete altri 6 miliardi, sono capaci tutti. Ma allora cosa deve cambiare? Che quelli da individui devono diventare persone. Cioè devono leggere non l'esigibilità del diritto, ma il rendimento che ho dopo di aver reso esigibile. È una frontiera del futuro. Il welfare diventa a quel punto investimento. Posso farlo su scala più piccola, su scala regionale, di aver parlato stamattina, ma mi hai detto 6 miliardi e gli altri? Dobbiamo arrivare a 25, non la faccio lunga, faccio un altro esempio. Franco Piacentini ha toccato un punto dolentissimo. Indennità di accompagnamento. Quanto valgono? 11 miliardi. Benissimo. Allora, schema di gioco uguale, non tolgo il diritto. Dico a quelle persone, voi li ricevete a titolo di condizione, non a titolo di reddito. Per cui lo riceve il ricchissimo e il poverissimo. Ma voi siete così cattivi tra voi che non riuscite a redistribuirvi 10 euro, 100 euro tra chi ne ha tanto e chi ne ha poco, basta fare un piano inclinato. Scegliete voi come si fa in Luxottica quando fanno welfare aziendale, cioè decidono che una parte della remunerazione è moltiplicativa come servizi a vantaggio di chi ne ha bisogno e quando ne ha bisogno. Che male c'è? Produce lavoro di welfare, occupazione, eccetera. Quindi provate a redistribuirla. Secondo passaggio, degli 11 miliardi prendetene 1, 2, 3, 4 e trasformateli in servizi per le famiglie che gestiscono persone non autosufficienti. Quello che ha detto Franco Piacentini prima, con quei soldi. Ovvio che i primi a beneficiarne siete voi. In Toscana chi produce nel non profit servizi per la non autosufficienza stima nei prossimi anni di raddoppiare il fatturato. 200 milioni, 400. Ma sono stime vere, serie, per aiutare le persone, le famiglie. Quindi un piano di lotta alla povertà non può limitarsi a dire quali nuove misure ma come metto a rendimento strategico le risorse che ho a disposizione. Non posso farlo in 3 anni, perché 3 anni mi serviranno per mettere d'accordo i titolari di quei diritti e fargli capire che quell'approccio li fa guadagnare tranquillità, risorse, speranza di vita. Non per sé, perché se sei non auto anziano, ma per i tuoi nipoti, per le nuove generazioni, a cui dai la possibilità di operare in un contesto in cui carità, cioè startup innovativa, giustizia, non solo redistributiva, ma anche, come dire, giustizia a rendimento dei diritti, e generatività si danno una mano e preparano un futuro di socialità diverso. Ecco, parlandone con una giornalista che poi ne parlerà, suppongo domani, in un giornale nazionale, lei diceva, sì, ma è giusto, è bello, ma è troppo bello, troppo difficile, perché richiede un cambio di mentalità. Ho capito, ci abbiamo messo 45 anni, ci ha detto il professor Muraro, ad ascoltare Kant, a leggerlo, a non leggerlo, a dimenticarlo. Alcune di queste cose ce le aveva dette. Cioè non era dentro lo schema del logic model, tutto sotto controllo, ma io devo avere eccedenza. La generatività è eccedenza. Gli aiutati, i poveri, i malmessi esistenzialmente ci insegnano che sono valore e che diventano valore per sé e per gli altri. E questo qualsiasi studente di economia che ha fatto o che farà la tesi riuscirà a calcolare anche l'equivalente economico di questo valore. Per Padova l'abbiamo calcolato. Sono per ora 3 milioni e mezzo di valore sociale ed economico che i volontari mettono a disposizione dei poveri di Padova. Quindi è potenziale che abbiamo a disposizione, e allora è per questo che noi abbiamo messo un triplo titolo nel rapporto. Poveri così sia, fine. Poveri e così non sia, e poi il sia la dice il resto. I giorni della Chiesa. Grazie al direttore Vecchiato, l'ultima voce che ha chiuso questa serie di interventi della presentazione del rapporto 2017 di Fondazione Zancan dal titolo Poveri e così non sia. La lotta alla povertà, dunque, con diverse proposte. La Fondazione Zancan fa sempre la parte di analisi molto approfondita, dettagliata e documentata, e poi la parte, come abbiamo sentito, delle proposte. Grazie a Giulia Barbero di Fondazione Zancan, che ha condotto e presentato gli ospiti del pomeriggio che si è svolto il 21 marzo scorso al Palazzo Vescovile di Padova. Grazie a Edidaici per la regia, grazie a voi per l'ascolto. Da Mirko Cavallin, buon proseguimento di ascolto. I giorni della Chiesa. Eventi e incontri della Diocesi di Padova.